Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutte, siete sulle frequenze di Radio Città Fujiko, qui è Alessia che vi parla e questa è la vostra mezz'ora di storia. La puntata di oggi la dedichiamo alla presentazione di un bel libro dal titolo Prima gli italiani, sì ma quali, uscito per la collana Fact Checking di La Terza. Come sempre ricordatevi che potete ascoltare e riascoltare il podcast di questa come di tutte le nostre puntate sul sito radiovalloon.info. E come avrete capito, visto il nostro amore per la storia e la divulgazione, ci siamo proprio innamorati di questo progetto editoriale della Terza. Infatti abbiamo avuto ospiti qui da noi, Eric Gobetti e Chiara Colombini nei mesi scorsi. A breve invece accoglieremo Francesco Filippi, lo storico, autore per Bollati Bolinghieri di Mussolini ha fatto anche cose buone, che è un libro che ha segnato un punto di non ritorno nel dibattito pubblico sui fascismi di ieri e di oggi, e poi per la stessa casa editrice ha pubblicato il libro dal titolo Ma perché siamo ancora fascisti? Adesso invece presentiamo questo breve e intenso volume che ha pubblicato appunto per La Terza, Prima gli italiani, sì ma quali, che è sostanzialmente una storia culturale dell'identità italiana. È un racconto che passa attraverso degli snodi centrali, principalmente dall'inizio della storia unitaria dell'Italia fino ai giorni nostri, e proprio la prospettiva storica che Francesco Filippi consegna ci consente di fare i conti con la natura mutevole dell'identità italiana. È difficile trovare infatti una continuità nel significato dell'essere italiano, al di là degli slogan che sono zeppi di anacronismi e sentimenti, come appunto prima gli italiani, che sentiamo risuonare molto spesso ultimamente, ma in fondo noi sappiamo davvero cosa significa essere italiani? Prima di accogliere in studio qui con noi Francesco Filippi, facciamo una brevissima pausa musicale. A presto! Lottavano così come si gioca, i cuccioli del maggio era normale, loro avevano il tempo anche per la galera, ad aspettare lì fuori rimaneva. Diamo il benvenuto a Francesco Filippi qui a Valloon con noi oggi, abbiamo il piacere di parlare con te, ciao! Ciao, ciao a tutti e a tutti! Ecco, tu entriamo subito nel merito dell'intervista e partiamo dal titolo, prima gli italiani e che cosa significa appunto, qual è il significato, i simboli che stanno dietro l'identità italiana, che spesso appunto viene percepita come piuttosto statica e monolitica, in realtà appunto è frutto di millenni di scambi e di meticciato. Quanto è importante, ti chiedo, il confronto con i migranti oggi e quanto è stato importante il passato coloniale dell'Italia nella costruzione dell'identità? Beh, diciamo che la fame di colonie che prende l'Italia liberale della fine dell'Ottocento è motivata, tra le altre cose, come cerco di spiegare nel libro, proprio da potremmo definirlo un complesso di inferiorità razziale. L'Italia, l'italietta tra 8 e 900, come si autodefinisce, ha difficoltà a tratteggiare il proprio senso, la propria costruzione formale, e ha di fronte una volontà, quella di essere una grande potenza europea bianca che porta civiltà nel mondo, e uno dei requisiti per essere parte di questo club esclusivo dei potenti della terra era quello di avere delle colonie. Quindi paradossalmente il nazionalismo italiano si volge verso il colonialismo, tra l'altro il colonialismo abbastanza lazzarone, abbastanza di risulta, un sottoprodotto dell'impero britannico viene definito il sistema coloniale italiano tra 8 e 900, è uno dei molti modi che l'elite al potere, l'establishment italiano di questa Italia fatta ma non compiuta, se volessimo essere diciamo retorici, una delle carte che questo establishment si gioca per giustificare se stessa, il proprio potere e diciamo quella mitopoiesi, questa costruzione, nascita, fabbricazione del mito dell'Italia che tra 8 e 900 si scontra effettivamente con la realtà di essere una nazione tra le altre. Poi il colonialismo si innerva sul mito della razza, sulla pseudoscientificità biologica che nella prima metà del Novecento è ben presente nella narrazione nazionale, non solo italiana, come sappiamo, ma un po' di tutta Europa, e il fascismo porta al parossismo questo tipo di lettura. Purtroppo dopo il 1945 il connubio nazione-razza rimane fortemente in piedi in tutti i paesi, nei paesi costretti a fare i conti con la decolonizzazione, la Gran Bretagna e la Francia, rimane in piedi anche in un paese come l'Italia che la Seconda Guerra Mondiale priva delle colonie e quindi priva anche della capacità di fare i conti con il proprio passato coloniale. È una delle tante pagine mute, vuote, bianche della memoria pubblica dell'Italia che porta a oggi dei riflessi terribili, banalmente partendo dal fatto che negli stadi e addirittura in striscioni appesi fuori dalle scuole del nostro paese si legge: non esistono negri italiani. C'è ancora una forte componente, certo, biologica in alcuni rispetto al tema di che cosa significhi essere italiani. Ecco, senti, ma oltre al confronto con lo straniero, col migrante, con l'altro in generale, diciamo, non credi che la storia del concetto di identità italiana, di patria, abbia una genealogia anche tutta maschile e oltre che bianca anche eteronormata? Ma non lo credo io, sono i fatti a raccontarlo, sì. Nel senso drammaticamente oserei dire. I sociologi ci raccontano, cito Benedict Anderson, però molte scuole che analizzano l'evoluzione sociale sottolineano come queste comunità immaginate che sono le nazioni nient'altro rappresentano se non un insieme di volontà, valori, costruzioni fittizie che stanno in mano a chi ha il potere all'interno di queste comunità. La nazione è uno dei tanti metodi con cui alcuni raccontano ad altri perché tutti debbano stare insieme. Di solito questo racconto lo fa chi ha il potere, e se c'è una cosa di cui posso essere più che certo è che il potere negli ultimi due secoli abbondanti in questo continente, nel continente europeo che ha visto la nascita della nazione, è fortemente detenuto da delle elite di maschi bianchi adulti, fammi dire pubblicamente eterosessuali, questa è anche una grande, certo, differenziazione che dobbiamo tenere presente, in cui le altre possibili realtà del racconto non sono effettivamente contemplate, un po' perché all'inizio non se ne sente il bisogno. La donna è una delle tante minoranze all'interno di questo puzzle complesso che sono le nazioni, una minoranza che non fa racconto ma che subisce il racconto. Anzi, per converso si può dire che le reazioni abbastanza scomposte e anche ridicole ha dei tentativi di riequilibrare questo racconto, sempre oggi da parte dei rappresentanti del gruppo dei maschi bianchi adulti pubblicamente eterosessuali, in qualche modo fanno riflettere proprio sullo sviluppo di questi racconti, e il racconto nazionale non fa eccezione in questo. Certo, la donna rappresenta anche appunto l'altra insieme ai neri, ma rappresenta anche la vittima in questa narrazione. Non solo rappresenta la vittima, ma rappresenta fisicamente il pegno per cui, per esempio, combattere. All'interno della, faccio esempio, della propaganda guerresca della Prima Guerra Mondiale, per la prima volta le donne entrano a spron battuto nel discorso nazionale, ma non ci entrano come protagoniste, ci entrano come oggetti. La Prima Guerra Mondiale inventa quella parola strana che è anche un filo di nonsense che però si continua a utilizzare oggi. Si passa dalla patria, cioè la terra dei patri, a questa madre patria che è la terra dei padri, che ci è madre, quindi insomma con un complicato rapporto genealogico che serve a dimostrare che cosa e a giustificare che cosa. Una terra in pericolo, una nazione in pericolo che corre dei pericoli seri per un nemico che evidentemente, come tutti i nemici militarizzati, nella propaganda tra 8 e 900 viene dipinto come un maschio sessualizzato. La madrepatria serve a raccontare ai cittadini italiani che fanno i soldati in trincea il rischio ipotetico ma anche consistente e fattivo dello stupro dell'idea della nazione. La donna e il suo corpo vengono utilizzati come metafora nemmeno troppo velata di quello che può succedere se tutti non collaborano alla difesa della nazione. In questo caso, per esempio, Caporetto, cerco di esplicitarlo nel mio libro, è l'emblema di questa propaganda vincitrice, perché dopo Caporetto finalmente, diciamo, in qualche modo c'è la terra italiana occupata dallo straniero, c'è la donna italiana in pericolo. È una narrazione che rimane in piedi, è l'antenato del famoso slogan ci rubano le nostre donne, che abbiamo sentito e sentiamo tutt'oggi portare avanti. La donna oggettivata, che è parte del bagaglio nazionale, proprio uno dei premi che il nazionalista può avere, le nostre donne, appunto questo possessivo, nel momento in cui tiene botta nel servizio della patria. Tu ci accompagni attraverso il libro lungo alcuni snodi importanti, diciamo, della storia, della grande narrazione della storia d'Italia. E veniamo al dopoguerra adesso, il secondo dopoguerra, diciamo che rappresenta uno degli snodi più importanti per farla finita col fascismo, e lo individui, diciamo, nella fase del boom economico tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, quando l'italiano vuole sentirsi moderno, capitalista e parte dell'Occidente. E poi un altro snodo interessante è quello del 1968. Verso lo snodo del 68, il protagonismo dei giovani, dei movimenti sociali degli anni 70, nonostante la complessità che sottolinei di questa stagione dei movimenti, che è stata chiamata anche anni di piombo, mi sei sembrato più, diciamo, accogliente rispetto alle altre fasi di mutazione dell'identità italiana. Mi pare che ci hai anche intravisto, più di altri momenti storici, una fase di opportunità di liberarsi del peso delle vecchie rappresentazioni nazionali e internazionali, dei legami culturali col fascismo, un'opportunità di reinvenzione dell'identità grazie al ruolo delle nuove narrazioni e dei movimenti. Quindi è una dinamica che, diciamo, accomuna l'Italia anche alle giovani generazioni che lottavano nel 68 in Germania, che dovevano chiudere i conti con il nazismo. Però ecco, mi piacerebbe capire anche questo occhio di riguardo che tu hai nei confronti del 68, se ce ne puoi parlare. Diciamo che il 68, hai fatto bene a sottolinearlo, non solo italiano ma a livello europeo, è un momento di snodo non retorico all'interno di quella che possiamo definire un'evoluzione della costruzione o delle costruzioni sociali. Mi spiego meglio: nel 1789 avviene la prima, con la rivoluzione francese avviene la prima grande, letteralmente, rivoluzione sociale. Si passa a dire che dal fatto che la terra è del re e che il re la governa perché è stato mandato da Dio e ha il mandato divino per farlo, si passa a dire che chi ha del potere, chi ha del denaro, chi ha dei mezzi su questa terra, ha dei diritti e dei doveri su questa terra. Nasce un concetto molto moderno, quello della citoyenneté, della cittadinanza. Da questa prima idea larvata, cioè che il fatto che tu, potendo esistere in un luogo, in un tempo, abbia dei diritti e dei doveri nei confronti di questo luogo e anche di questo tempo, da lì in poi c'è un fiorire di teorie che vorrebbero costruire società nuove. Tra queste il nazionalismo è una delle tante. Parto dal 700 ma arrivo subito agli anni 60, sì. dicendo che per esempio nel 1861, tra le varie idee d'Italia, nazione, che sono sul tavolo, vince per evidenti squilibri di carattere economico-militare l'idea dell'Italia unita, monarchica, centralizzata, eccetera, eccetera. E altri tipi d'Italia, di idee d'Italia che erano sul tavolo, penso all'Italia democratica, all'Italia sognata dai libertari come Garibaldi, altre Italie che sarebbero state costruite dal basso, via. Quelle Italie che vedono la nazione come luogo in cui il popolo, un popolo, trova la propria realizzazione, quindi diciamo appunto chiamiamolo pure nazionalismo democratico con una piccola forzatura anacronistica, vengono a scomparire. E nel corso di questo secolo abbondante che passa dal 1861 agli anni 60 del Novecento, l'idea di nazione, possiamo dirlo, il pallino del racconto della nazione rimane fortemente inchiavardato a destra. La resistenza è anche guerra patriottica, certo, però le idee della resistenza subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, come cerco di sottolineare nel libro, vengono in qualche modo accantonate e travolte rispetto a nuovi tipi di narrazione. Ecco, in questo il 68, dal mio punto di vista, è in tutta Europa e in Italia in particolare un nuovo modo di raccontare la comunità attraverso dei passaggi formali che per una volta non derivano direttamente da quella che all'epoca era l'elite dominante, quindi chi aveva in mano il filo del racconto, ma deriva la propria forza da una più condivisa, aperta, sicuramente caotica, sicuramente di difficile riduzione per sommi capi, volontà, chiamiamola pure popolare, usiamo questo nome, diffusa, più diffusa che in precedenza, di prendere parte alla cosa pubblica. Questo non necessariamente avrebbe portato, dal mio punto di vista, ad un nuovo concetto nazionale, anzi ritengo che la macchia data dal fascismo all'idea nazionale, quindi al nazionalismo inteso come fattore negativo, avrebbe portato con ogni probabilità ad un superamento possibile dell'ideale nazionale, e in parte è questa la strada che hanno preso molti dei movimenti di quell'epoca. Però ecco, sì, quella che è stata definita indulgenza o attenzione, in realtà è il tentativo di spiegare come un tentativo dal basso di aprire l'idea di costruzione di società nuova ci sia stato, tra l'altro non è nemmeno stato l'ultimo. Di certo c'è un problema, che le narrazioni si costruiscono attraverso mezzi, e il monopolio dei mezzi di informazione spesso non è nelle mani di chi tenta di abbattere il potere costituito, chiamiamolo così. Ma forse non voglio allargare troppo il campo, spero di averti risposto. Il 68 no. È un momento in cui pare che la mossa, l'iniziativa si sposti dall'alto al basso, ecco. E grazie anche poi all'orizzonte internazionalista del 1968. E questo poteva avvenire, come se un'altra Italia era possibile, diciamo. Sì, certo, sì, ecco, se vogliamo appoggiarci agli slogan che comunque servono, direi sì, un'altra Italia sarebbe stata possibile. Ecco. Sì. Senti Francesco, prima di proseguire l'intervista andiamo un attimo in musica, facciamo una pausa. Sì. E indovinate anche voi chi stiamo per ascoltare, visto che partiamo ci muoviamo dal 1968 in avanti. Ascoltatemi, se credete ora che tutto sia come prima perché avete votato ancora la sicurezza e la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare. Penso che abbiate capito, ci risentiamo fra poco sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. Eccoci qua, bentornati e bentornati sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Siete ancora qui con Vallun e con il nostro ospite Francesco Filippi, autore di Prima gli italiani, sì, ma quali, usciti per la collana Fact Checking di La Terza. Avviciniamoci ora, Francesco, ai nostri giorni. alla fine del millennio, diciamo, abbiamo percepito, visto anche che l'abbiamo vissuto e attraversato da quasi adulti, l'interrogativo politico principale delle istituzioni e intellettuali è stato il recupero di un certo patriottismo, no? Si trattava e si tratta ancora di un'onda di neonazionalismo, un'ansia, diciamo, identitaria che aspirava proprio a defascistizzare il sentimento nazionale e nazionalista che sembrava ormai ignorato da tempo. Ce n'era davvero bisogno? Cioè, chi ne aveva bisogno? In Carlo Azeglio Ciampi, Azeglio con la G, ha un ruolo centrale in questa, in questa operazione di ricostruzione di identità unitaria. È lui l'artefice della riorganizzazione della parata militare del 2 giugno, con l'omaggio al Milite Ignoto, al Vittoriano, di un patriottismo repubblicano. E nel settennato di Ciampi c'è anche, è anche la fase di istituzione del giorno del ricordo. Il tanto odiato giorno del ricordo e conflittuale divisivo sulle foibe. Quindi c'è proprio una reinvenzione del calendario civile. Io ti chiedo quanto ha a che fare diciamo questa identità monolitica italiana di oggi con una riabilitazione del passato totalitario, visto che la memoria pubblica del fascismo non ha mai goduto di una salute migliore. Beh, diciamo che quello che io definirei ciampismo, che proviene non solo da Carlo Azeglio con la G Ciampi, ma anche da un establishment, diciamo, politico repubblicano che a cavallo del millennio tenta in qualche modo di riesumare le forme del nazionalismo classico, usando la parola patriottismo al posto di nazionalismo e la parola patria al posto di nazione, quindi in qualche modo portando le lancette dell'orologio ben all'indietro, oserei dire ad un pre-1922. Sono tutte però operazioni che dal mio punto di vista lasciano il tempo che trovano. Mi spiego meglio. Ciampi e il moto patriottico, patriottardo, che poi tenterà di sfociare con il 150° anniversario dell'Unità d'Italia nel 2011 in una riscoperta della patria, in realtà applica i temi antichi, troppo vecchi, troppo usurati ad una situazione che ha evidentemente bisogno di risposte nuove. Ciampi o chi per lui, o comunque diciamo la Presidenza della Repubblica a cavallo degli anni 2000 tenta di riportare in auge con un mix un po' Buckingham Palace, pensiamo al cambio della guardia dei corazzieri a cavallo che viene istituito e che diventa una delle attrazioni della Roma di quegli anni, un po' non solo Buckingham Palace ma anche un ritrovato orgoglio che oserei chiamare grandeur simil francese per la bandiera, per la patria, per l'orgoglio dei nostri militari. In generale però si tratta di un moto che tenta di fermare la fine inesorabile di questo tipo di racconto pubblico, tant'è vero che dopo il tentativo di Ciampi nel 2011, in realtà quando si parla di nazione, complice anche la congiuntura internazionale di crisi, si parla di crisi della nazione. Sono pezzi vetusti di un racconto che si lascia dietro vecchie ferite non rimarginate e che ne crea altre di ferite. È giusta la segnalazione del fatto che è proprio in quegli anni che nasce il giorno del ricordo, il 10 febbraio, il quale nasce evidentemente come un tentativo di riequilibrare un rapporto memoriale che sembrava è troppo sbilanciato a favore di una parte, cioè si tenta in qualche modo di riequilibrare il 27 gennaio. Quindi si tratta di un tentativo di riequilibrare un mercato delle vacche della memoria, per cui il 27 gennaio sembra troppo di sinistra e quindi un governo di destra porta avanti l'idea di un giorno del ricordo, tra l'altro riguardante un fattore molto complesso che è quello del confine orientale, in cui diciamo in eufemismo, poi l'amico Eric Gobetti e collega di collana potrebbe essere più tranciante di me, ma io mi limito a dire diciamo piuttosto torbido e non così puramente direttamente collegabile all'idea degli italiani come vittime, l'ho detta bene? Sì. Diciamo che è un giorno complesso ed è un giorno che si intride di nazionalismo. Il 10 febbraio, per chi se lo fosse scordato, non è come 27 gennaio il momento in cui questo eccidio finisce, questo presunto spurio genocidio alla fine, ma il 10 di febbraio è il giorno della firma del trattato di pace dell'Italia, quasi a voler dire in qualche modo che quel trattato di pace sia un'onta per la memoria degli italiani. Questa è evidentemente una retorica che ci collega in maniera diretta alla vittoria mutilata del 1918, quindi al trattato di Versailles del 19, o addirittura drammaticamente alla visione che avevano i tedeschi di Versailles. Fare del 10 di febbraio il giorno della memoria dei torti subiti dagli italiani, dal mio punto di vista, dal punto di vista di uno storico, anche se questo non è l'accento che ora si pone in maniera diretta, perché evidentemente ha trionfato la linea emozionale sul 10 febbraio, però se noi ci volessimo soffermare sul valore di questa data, stiamo parlando della data del trattato di pace. Quindi diciamo in qualche modo è la rivendicazione di non aver accettato quella sconfitta, e quella sconfitta, ricordiamocelo, non è la sconfitta dell'Italia in quanto nazione, ma la sconfitta del fascismo e di chi il fascismo l'ha supportato e portato ai vertici purtroppo della politica della guerra e della guerra mondiale. Quindi diciamo quel momento all'inizio degli anni 2000 in cui complice una ritirata più o meno disordinata e niente affatto strategica di determinata sinistra riguardo i temi della resistenza e della memoria pubblica, ha contribuito al fiorire di questi tentativi di rianimazione di un corpo morto, che è quello della memoria della nazione. Perché ribadisco, l'idea nazionale a partire dagli anni, possiamo dire dagli anni 80, non ha più una valenza di carattere politico, ma è solo bandiera di fazione nel nostro paese. Grazie per il tuo tempo e grazie tantissimo. Grazie a voi. Ciao. Un abbraccio a voi e alla prossima. Alla prossima. Da Vallone, dalle caldissime frequenze di Radio Città Fujiko, vi auguriamo buon pomeriggio e alla prossima settimana. Ciao.